Imparo lo Zohar con Rabbi Michael ben Pesach Portnar. Parte prima, Baderek el Asulam, sulla via per la scala. Lezione numero 12. Prova a fare domande che non vengono dal tuo desiderio di capire con la mente, perché ciò non porta salvezza. E poi vedrai che non è difficile. Quando leggi e ascolti il testo, prova a essere nel presente, con la massima concentrazione. Così sarai riempito con la luce del Creatore. Impara a fare certi movimenti dentro di te. Restringi il tuo spazio per il più elevato e poi sperimenterai il superiore dentro te stesso. Lo spirituale non ha nulla a che fare con la spiritualizzazione. Lo spirituale non è da nessun'altra parte di dove è Ein Sof. Solo quando lo sperimenti dentro te stesso, quello è lo spirituale. Siamo all'inizio della Genesi, Bereshit, e poi continueremo con Adam, il peccato di Adam, e impareremo cosa significa tutto. Ne saremo stupiti. E poi veniamo a Cain. Impareremo che ogni cosa che esiste nella teologia, con tutti i santi, è spiritualizzazione e non il vero spirituale. Non cercare di aggrapparti alle affermazioni che esistevano. Erano tutti un tipo di persone che volevano riceverlo, ma non era ancora il tempo per riceverlo. Il più piccolo ora può ricevere più del grande Agostino. Dovevano sacrificare loro stessi, autopunirsi. Noi non ne abbiamo bisogno. Non che possiamo fare ogni cosa che vogliamo, ma la restrizione deve essere una restrizione consapevole e non una autopunizione. Non abbiamo nulla a che fare con la spiritualizzazione, perché quello non dà vita. È solo speranza per qualcosa che è fuori di te. Mentre la speranza è solo dentro di te, la speranza e la salvezza è solo dentro te stesso, in ogni essere umano. Non correre dietro alle opinioni medievali degli altri. Sono, nel nostro tempo, non più valide. Prova dentro di te a dire una preghiera, in modo che il testo ti rispecchi. Tu la sollevi, vuoi ricevere la luce, e poi riceverai la luce, perché quando un essere umano porta se stesso in accordo con ciò che impara, lo dice lo Zohar, allora senza dubbio quella luce verrà. Non provare ad afferrarlo con la mente, ma renditi ricettivo. Ascolta, accettalo, anche quando non padroneggi la lingua ebraica. Non importa, perché io la tiro giù dall'alto. Essa non è mia. E poi ognuno di noi ce la farà. Non è difficile, tutti nel mondo sono impauriti dallo Zohar, ma se adotti un atteggiamento semplice nei suoi confronti, allora esso ti parlerà. Ma se provi a capirlo con la tua testa, allora ogni cosa si chiuderà per te. L'atteggiamento dall'interno è cruciale. E lui, Zohar dice che la coppa di benedizione ci insegna a conoscere l'attrazione di cinque Hassadim dentro le sue cinque Gvurot di Nukvach, come menzionato sopra. L'intenzione è che la luce dall'alto, da Zerampin e Binach, viene nella Nukvach, perché lei poi può trasmetterla al resto della creazione. Abriah, Yetzirah, Asiyah e infine all'essere umano. Quella coppa deve restare su cinque dita, la quale le cinque dita sono come Or Choser, riflette la luce, che è Gvurah. Lei porta Gvurah sopra e Hassadim entra. Noi, come prodotto della Nukvach, facciamo esattamente lo stesso. Nella nostra preghiera portiamo sopra la pesante amarezza, Gvurot. Nessun essere umano ha il potere di addolcire da sé l'amarezza. E poi diventa come cinque dita, cinque cancelli in cui il Hassadim può entrare. Hassadim significa misericordia. Poi tu sperimenti misericordia dentro il tuo din che tu porti sopra. E le Gvurot che vanno sopra e dentro lì entrano le cinque luci di Hassadim, la quale è chiamata benedizione. La benedizione non è ancora Gadlut, non è il momento del perfetto stato di Nukvach. La benedizione è ancora Hassadim. Vale a dire solo nel numero 10. Egli ci ha già detto che il numero 10 è usato per attirare Hassadim. Sappi solo che è così. Il perché viene dopo, e non è nemmeno necessario, perché ti sarà dato dall'interno. Esse sono Kagate, Naak, Kesed, Vura, Tiferet, Netzach e Od. Kagati di Zerampin sono come Kagabi e Netzach e Zerampin e Od è come Malkut rispetto a Zerampin. Zerampin ha anche cinque e si chiamano Kagati, Naak e il sesto è Yesod. Da dove provengono quei cinque Hassadim? Zerampin ha sei Sfirot, cinque sono Hassadim e poi c'è ancora nel fondo Yesod. Kagati è proprio come KKB. In KKB hanno luce Kokmach e Zerampin. E Zerampin non ha luce Kokmach. KKB ha, per così dire, scende nel corpo e sono chiamati Kagati. Netzach di Zerampin è Zerampin. Eod è Malchut di Zerampin, perché tutto ha cinque. Nukvach, Malchut, ha anche cinque e anche lì sono chiamati Kagati, Naak, ma tutte della qualità di Gvura, di Din. In Zeyrampin è tutto Or Hasadim, luce di misericordia. Nukvah, quindi, ha bisogno di ricevere da Zeyrampin Hasadim maschile. Come può allora lei ricevere? Nello spirituale e anche in tutte le cose terrene, tu ricevi attraverso la fusione-collisione, Zivug, la copulazione. Ogni comprensione è una forma di copulazione. L'intera correzione è fondersi con il superiore, riflettendo la luce più alta, proprio come un uomo e una donna. All'inizio indica che vuoi unirti con il superiore se ti trovi su un livello. Poi rifletti quello che il superiore splende per te. Il superiore, il maschile, vede che c'è una reazione e poi viene fuori una comunicazione. C'è un'interazione. L'inferiore allora si rende ricettivo, proprio come Nukvah. Lei riflette le cinque Gvurot ed entra Chasadim e ottieni la Berachah, benedizione. Non c'è altro modo per ricevere la benedizione. Se qualcuno prende una linea dura, allora non può ottenere nulla. Pertanto, renditi ricettivo nei confronti del superiore. L'intera correzione di noi e l'intera creazione è basata sul principio di non tirare Or Hasadim da sopra a sotto per fare zivug lì, fusione, copulazione. Proprio come ha fatto Adam e altri che hanno provato, perché poi non puoi sperimentare la luce. Ma fare uno sforzo, preghiera, per essere tirato sopra, per tirare le tue carenze sopra, è lì causa che Zeyrampin e Malkut con i tuoi sforzi si fondano. E poi va tutto attraverso a Ein Sof e ritorna con la benedizione e la luce Chasadim. E se poi ti preservi, dipendente dal potere della tua preghiera, allora ricevi anche Or Kochmach nel tuo Chasadim, e quello dà vita. In accordo al principio, dobbiamo conoscere i principi e poi possiamo vedere la foresta per gli alberi, che ogni cosa che un inferiore causa al superiore in materia di bene, l'inferiore ottiene anche dal superiore. Quindi, se causiamo con la nostra preghiera che la Malkut lo porta al Zeyrampin e poi a Ein Sof, perché noi otteniamo solo la luce da Ein Sof e da nessun altro. Gli altri lo trasmettono solo. E poi otteniamo tutto il bene che abbiamo causato, il superiore. Il bene viene dall'alto, solo se lo chiedi. Questo è un aspetto totalmente diverso da quello che l'umanità ha compreso nell'intera storia. Non che noi lo capiamo, ma ci viene dato ora. E solo l'uomo causa il bene a se stesso. Se richiami il bene nel superiore, con la tua preghiera e il tuo atteggiamento, allora lo ottieni anche dall'alto. Altrimenti non accadrà nulla. E ci sarà solo sofferenza e ovviamente otterrai indirettamente qualcosa di buono dalla tua sofferenza. Perché dirai che hai sofferto molto per qualcosa e quindi non lo farai più. Questo è quindi attraverso la negazione. Tutta la storia non è altro che questo. Così egli dice solo nel numero 10. E 10 è come 5, solo che Zerampin è scritto. Questo è Kagati, Na-H, è chiamato questo come nel corpo di 10 Sfirot di Zerampin. E nella testa hanno altri nomi, Kagabi, Zo-N. Ci sono anche 5 in Malkut, ma sono di Din, rigore. Anche Din governa nel nostro mondo, e non c'è nulla di sbagliato in questo. Ma un uomo non deve preoccuparsi di non scegliere Din, ma di alzare, come era Din, sopra, e non di tirare Din sotto, come fece Adam e ogni distruttore. E allora Hasadim viene da sopra. Nel nostro mondo non possiamo vivere solo di Hasadim. È una pia illusione se pensi che sia possibile. Forse possono crocifiggere qualcuno con la misericordia, ma un uomo non può tenere la vita solo attraverso la misericordia. Ci deve essere Din nel nostro mondo. È stato creato in questo modo. Dobbiamo tirare la din, il rigore, sopra, perché non possiamo vivere nel din. Il mondo non è creato in questo modo, e dal nostro desiderio per il superiore, i chassadim verranno ed entreranno nel nostro din. Dal nostro din facciamo una cassa, una copertura, proprio come i cancelli, proprio come con la regina che siede nella carrozza e puoi vedere su entrambi i lati le guardie. È lo stesso con noi, le guardie sono il rigore che portiamo sopra e lì dentro entra la luce di misericordia or Hasadim, in materia di poteri. Ci aspettiamo tutti i tipi di immagine, spiritualizzazione, ma si tratta tutto di poteri. Puoi attirare Hasadim e continuamente più in profondità in tipi differenti. Ogni giorno puoi estrarre il Mashiach da te. Il Mashiach è in ogni uomo. Devi essere il Mashiach per te stesso. Devi fare da sotto le tue foglie dure, pesanti foglie, continuamente più dure, e tirarle sopra come Gvurot, e dentro lì la luce Chassadim viene, misericordia. Non un profeta ti dà misericordia, ma tu dai a te stesso misericordia. Ognuno deve fare uno sforzo da solo per tirare la misericordia a se stesso, e non nel nome di qualcun altro, ma nel nome di te stesso, la tua relazione con il superiore. Il prossimo passo è nient'altro. Ogni cosa è solo nel tuo interno. È un atteggiamento infantile pensare che qualcun altro ti possa aiutare. Da migliaia di anni provano di fare l'essere umano un addomesticato, animale da addomesticare. L'uomo ne è diventato più felice, Naturalmente tutto va alla conclusione. Ora ci viene rivelato e non perché siamo intelligenti. Al contrario, devi rinunciare a tutta la tua bravura, intelletto, e poi i miracoli accadranno. Come posso darlo da me stesso? Questa è la parte testarda di noi, il desiderio di capire con la nostra mente, mentre ci ostacola nel nostro cammino. Dobbiamo arrenderci. Ogni cosa che hai imparato, o anche ricevuto un'istruzione superiore, sono diventato medico, ho frequentato il Technical College, ho studiato tutti i tipi di cose, ma ho rinunciato a ogni cosa. Ovviamente nulla scompare, non puoi buttarlo via, ma è come se lo avessi buttato in un fosso. Non significa più niente per me, perché ogni saggezza nel nostro mondo non è nulla in confronto alla luce divina. Nulla ci viene chiesto se non il desiderio e continuamente più fiducia, fede. Credenza, fiducia, cioè or chassadim. Che cos'è la fede? Se avessimo un qualche tipo di raggi X spirituali e potessimo vedere attraverso il corpo, allora potremmo vedere quando un essere umano è in preghiera, che qualcosa sale sopra dal suo interno, come nuvole. Nuvole di luce fitta, non corrette, con un grande desiderio spesso, aviyut, e lì dentro viene una luce più sottile, e cioè or chassadim, luce di misericordia che ammorbidirà la tua din, il tuo rigore. Ogni giorno di nuovo e ogni volta un'altra correzione fino a che è così purificato, pulito che quello che porta sopra non è più pesante come or chassadim, splende attraverso esso. E poi un po' di kokmach arriva dentro lì, ed esso diventa più fine, più trasparente. Quello è ciò che chiamiamo un odore gradevole per il Creatore, ossia l'offerta, proprio come nel Tempio, quando gli animali erano offerti sull'altare. Non ne abbiamo più bisogno. La tua sincera preghiera è sufficiente. Poni il tuo ego, il tuo amor proprio sull'altare, Malkut, e poi arriva una cura. Ogni cosa è nelle nostre mani. E non di più di 5 dita su cui sta la coppa di benedizione. È una metafora. Cioè contrario al numero 13. Il numero 10 significa Gvurot, Din, che tu o Nukvach è lo stesso, porta sopra e poi 5 Chassadim vengono da sopra, e cioè 10. Così il numero 10 è di attirare Or Chassadim, luce di misericordia. È effettivamente una preparazione alla vera ricezione della luce Kokhmah. Solo Chassadim è per Malkut e per noi non abbastanza. La misericordia è piacevole, ma non è la vera realtà. È la preparazione alla ricezione adulta, che è Chassadim, con un po' di Kokhmah. Abbiamo detto che Nukvach in primo luogo porta 5 gurot sopra. All'inizio ci sono 5 foglie dure e come reazione porta 5 gvurot sopra come una preghiera e dentro arrivano 5 chassadim. Così lei riceve 5 chassadim, benedizioni, è come se lei solleva in qualità il Zeirampin. Perché se un inferiore si solleva al superiore, diventa come il superiore. Questa è la legge. E se un superiore discende verso un inferiore, ovviamente non da sé, ma solo l'esterno, per aiutare l'inferiore. Allora diventa come l'inferiore. Stiamo per imparare come il sistema nella creazione funziona. Ho cercato la risposta, ma non sono riuscito a trovarla da nessuna parte. Non nel Talmud, eccetera. Ero morto dall'interno, non avevo più potere, ero assolutamente deluso. Religione, saggezza, è troppo bello per essere vero. Riguardo allo Zohar, non valgono niente. Non c'è perfezione in esso, poiché non proviene direttamente dal Creatore. È solo un occultamento. Devi desiderare di più per lo spirituale che per la ricchezza, l'onore, potere, e poi ti sarà rivelato. Fai il tuo lavoro e così fai quello che devi fare, ma quello che fai nel tempo libero. È come qualcuno che non ha cibo e improvvisamente trova una camera del tesoro. E cioè nulla in confronto a quello che io ho trovato. Non volevo condividerlo con nessuno perché volevo lavorarci giorno e notte. Ma è stato dato a me così che io possa trasmetterlo ad altri. Il ricevimento di Chassadim, in cui è Chokhmah, apre i nostri occhi. La misericordia è camuffata, gli occhi mezzo assopiti non danno la luce di saggezza, il quale dà a noi la luce. E quello è 13. La Nukvah ha ricevuto 5 Chassadim, il che significa che lei si è fusa insieme con Zeirampin, che è un grado superiore. Poiché si adatta lei stessa a Zeirampin, lui ha solo bisogno di Chassadim, lei è venuta a livello di Zeirampin. Lei poi riceve Chassadim nei suoi Gvurot, e ciò che lei riceve dal superiore, che è l'area comune dove corrisponde a qualità. Ciò significa che Malkut è salita in quella estensione di fusione in quanto qualità. Principio: nulla scompare nello spirituale. Così lei esiste ancora nel suo proprio luogo, pertanto conserva tutti i poteri che avevi e ottieni nuove dimensioni. Zeirampin è caratterizzato da Chassadim, non ha bisogno di Chokhmah. Lei ora è salita al suo livello. Lui, il mio compagno, non ha bisogno di Chokhmah, ma lo faccio. Alcune caratteristiche comuni ti portano insieme, ma vieni da sotto e hai bisogno di qualcosa di più di Chassadim. Un grande reggente romano fu designato nel paese della Giudea, in Israele, e questo è anche menzionato nel Talmud, che all'inizio lui era un maiale, era ebreo ma divenne romano. Fu designato come un governatore. Il popolo ebraico nell'ambiente lo guardava dall'alto in basso, lo disprezzavano. Lui se lo ricordava e quando divenne un governatore li mise tutti al proprio posto. È anche scritto che, sebbene fosse un grande romano, sentiva dentro di sé che era ancora un maiale. Se sali dal basso all'alto, rimangono sempre i segni del basso. Quando divenne governatore e si sedette al tavolo reale, aveva ancora un appetito per la pancetta, eccetera, proprio come un normale maiale. È lo stesso con Malkut. Lei sale a Zerampin, dove c'è solo amore e Chassadim, e dice: dammi un pezzo di pane nero, pancetta, eccetera. L'inferiore ha bisogno di un po' di Chochmah, e poi lei si sente grande. Prendi quella parte di My Fair Lady. Era una fioraia ed era diventata una signora in 3 mesi. Mangiava a Londra con l'aristocrazia e quando era a suo agio iniziava a parlare nel suo vecchio linguaggio. Lo stesso è con Malkut. Vuole qualcosa di vivace che Zerampin non ha bisogno. Lui poi deve tirare giù un po' di Chochmah per lei. Lui pensa che è brutale, ma lei lo vuole e ne ha bisogno. Lui dà qualcosa dal suo lato sinistro, Chassadim, ma dal lato sinistro. La prima fase è che lei, dalla sua propria posizione e dai suoi propri poteri, Gvurot, Din, fa un appello a Zerampin e Zerampin poi le dà Chassadim. Lei ha bisogno, si ammorbidisce per la sua grossolanità riguardo a lui. Lei poi sale a lui perché per fondersi con lui lei deve alzare il potere per salire a lui. Quando lei è a livello di Zerampin, allora ha Chassadim e non i suoi Gvurot, come lo padroneggia già. Lei ha bisogno di Chochmah ed è nel suo livello di Chassadim. Lei ora tira Chassadim sopra, proprio come lei fece con il suo Din, rigore. È nella misericordia e vuole qualcosa di più vivace. Così è salita a Zerampin, ma non è soddisfatta con il solo Chassadim. Lei ha anche bisogno di un po' di Chochmah, ma non troppo ovviamente, altrimenti non saremmo capaci di vedere nulla e saremmo nella completa oscurità. Così deve essere tirato giù con moderazione, a dosi. Quindi Chassadim con un po' di Chochmah. Quindi non liquore corretto con caffè, ma caffè corretto con liquore. Allora è piacevole. Quando Nukvah sale a Zerampin, allora il suo ambiente è Chassadim, ma lei ha ancora bisogno di Chochmah. Lei ora va con il Chassadim sopra, così che Chochmah può entrare lì, perché lei, Malkut, ma anche noi, non siamo capaci di sperimentare Chochmah senza essere racchiusi in Hasadim. Se tiriamo giù il piacere puro, il piacere grezzo, allora non sperimenteremo mai la luce, ma cadremo nel peccato. Quindi ora è al livello di Zerampin, e di nuovo lei porta sopra Man, la luce riflette, e poi lei può già non Hasadim come nel suo posto. Prima lei rifletteva Hasadim di Zerampin, come quella è la luce venuta a Nukvach, ma ora lei si è sollevata a Zerampin. Chi è sopra a Zerampin? Binach e lei non ha bisogno di Kokmach, ma quando l'inferiore si solleva a un superiore, allora l'intera scala spirituale sale sopra. Nulla scompare nello spirituale, così la scala standard rimane sempre nello stesso posto. Ma lei ora è nella posizione di Zerampin. Lei è un grado superiore. Zerampin poi va a Binach, e Binach va a Kokmach, e Kokmach può essere ricevuto qui. Così all'inizio Nukvach sale di un grado sopra. Lei è poi nel posto di Zerampin. Allora riceve misericordia da lui, Hasadim, ossia chiamato Berakha, ricevere la benedizione. Pertanto il Creatore disse ad Abramo che lui sarebbe stato come Hasadim per il popolo, perché la qualità di Abramo è Chesed. Lui lo aveva raggiunto attraverso il lavoro, il suo lavoro spirituale. È anche scritto a riguardo di Abramo: chiunque ti benedice sarà benedetto, e tutti quelli che ti malediranno saranno maledetti. Prima non capivo una parola, e nessun rabbino poteva darmi una risposta. Ma Zohar ha aperto i miei occhi. Cosa significa quando il Creatore disse che Avraham sarebbe stata la benedizione? Il Creatore è il potere di Zerampin, e Abramo era un uomo, un'anima che divenne una Merkavah, un carro, un trono in cui il Creatore poteva risiedere. Ciò significa che lui è salito a Zerampin, a Chesed di Zerampin. Quando un'anima raggiunge qualcosa, poi rimane la proprietà dell'intero mondo, perché ciò che è tirato giù non va via. Abramo fu il primo, il solo, che poteva vestire, coprire, il potere di Chesed di Zerampin. Ciò significa che poteva, proprio come Nukvach, portare i poteri di Gvurot sopra ed estenderli fino alla sfira Chesed di Zerampin. Pertanto ogni uomo che benedice Abramo, cioè che tu con i tuoi sforzi, per così dire, ti poni come un embrione nella sua anima, che ti fidi che Abramo è il padre dell'umanità, allora ti unisci con lui, come gli ebrei e come i non ebrei, perché è scritto che sarà la benedizione di tutta l'umanità, per tutti i tempi. Ciò significa che con la nostra preghiera tiriamo i nostri gvurot sopra e vestiamo, o copriamo, l'anima di Abramo. Lui è il portatore della Sfirah, la luce Chesed, e noi, per così dire, colleghiamo il nostro carro a lui, e lui è la locomotiva. Attraverso ciò andiamo con i nostri Gvurot sopra, e proprio come Zerampin dà misericordia, Chassadim Anukvach, questo come Abramo dà alle nostre anime. Perché quando un inferiore si trova nella posizione di un superiore, allora diventa come il superiore. Poi ricevi la luce della posizione in cui ti trovi. Naturalmente il corpo di Avraham è andato in pezzi, ma la luce che ha attratto esisterà per sempre. Se ti sollevi a lui, a quell'anima, allora darà chassadim nei tuoi gvurot, e ciò è chiamato ricevere la benedizione, berachah. E cosa significa maledizione? Che non ti sollevi per ricevere chassadim, l'alta luce, ma che tiri giù la luce alla tua situazione scomoda, e quello è un peccato. Perché chassadim è dove è Zeirampin, e i poteri impuri non vogliono misericordia. 2000 anni hanno detto nella religione misericordia e avrebbero finito. Perché con chassadim sei da un lato protetto dai poteri impuri, ma non ricevi Kochmach. Da un lato è una specie di protezione. Sai di cosa sto parlando? Credi nel nome di, poi ottieni misericordia. Ciò è corretto da un lato, ma la nostra natura non è solo chassadim. Poteva essere in questo modo, allora la religione sarebbe giusta. È solo una fase nella costante scalata di Nukvach. Nella prima fase Nukvach sale a Zerampin, e poi lui va a Binah, che è una forma superiore di luce Chassadim. È solo una fase nella costante scalata di Nukvach. Nella prima fase Nukvach sale a Zerampin, e poi lui va a Binah, che è una forma superiore di luce Chassadim. Il grado successivo è che Nukvach, che è nella posizione di Zerampin ed è circondata da Chassadim, porta sopra Chassadim. Pertanto è detto che le cinque dita della sinistra dove poggia la coppa è la prima salita. All'inizio teniamo la coppa con due mani e poi nella mano destra. Così all'inizio riflettiamo con Gvurot per ricevere Chassadim di Zerampin. Poi al lato destro Chassadim. Lei porta sopra Chassadim come man, come una preghiera, i cancelli, e lì entra Kochma. Così la Nukvach fa un appello dalla posizione di Zerampin. Zerampin poi va a Binah e Binah va a Kochmach. Zon sono discendenti in quanto poteri di Binah, e Binah è in Kochmach. Binah stessa non ha bisogno di Kochmach, ma poiché un inferiore va a un inferiore diventa come il superiore. Così lei diventa Kochmach, e sotto è Zerampin, che ora è nella posizione di Binah. e Nukvach è nella posizione di Zerampin, perché ogni cosa è salita di un grado superiore. Binach, che è nella posizione di Kokmach, ha il potere di dare Kokmach. Zerampin deve dare sempre a Nukvach, non importa in quale posizione lui si trovi. Zerampin ora ottiene luce Kokmach, ma Binach dà un po' di Kokmach, la quantità che Zerampin può sopportare. Margaret Thatcher era un primo ministro e di giorno era nel Parlamento, ma a casa diceva gne gne gne e simili alla sua piccola. Quella era Thatcher e lo stesso con Binach, che ora è in Kokmach. Lei dà Kokmach a Zerampin, al suo livello. Anche la Thatcher non ha detto a sua figlia di aver dato un bel discorso in Parlamento sul bilancio. Dà solo a sua figlia ciò che si applica per lei. È lo stesso con Binach. Binach dà un po' di Kokmach a Zerampin, ma lui non ne ha bisogno, ha solo bisogno di Hasadim. Ma nella materia di potere creativo deve darlo a sua moglie, Nukvach, perché hanno già una relazione e lei ha bisogno di Kokmach. È una porta di servizio. Continueremo tra poco con Zohar e ti darà Kokmah nel Chassadim che ti darò. Abbiamo solo una lezione a settimana e quindi mi affretto il più possibile. Le cose principali che devi capire. Una pausa durante la lezione è ovviamente piacevole, capisco. Hai avuto una giornata difficile e vuoi rilassarti un po', parlare della tua famiglia, dei bambini. Perché? Perché allora si apre una valvola. È piacevole per la tua parte animale, poi ti senti bene. D'altra parte, se non fai una pausa, hai bisogno di stare concentrato per 2 ore e mezzo. Ovviamente, puoi andare in bagno, eccetera, ma non parlare dei tuoi problemi quotidiani. Per te possono sembrare importanti, ma effettivamente sono piccoli problemi, perché non puoi vedere la vera realtà e non vuoi vederla. Non puoi vederla perché non vuoi vederla. E pertanto continuamente cadi in piccoli problemi umani. Pertanto, se me lo chiedi, allora ti dirò. Vieni qui e cerca di lasciare fuori tutti i tuoi piccoli problemi. Qual è la tua grande gioia in confronto con Kabbalah? Niente. Qual è il tuo problema più grande in confronto con il tuo studio di Kabbalah? Niente. Non esiste nella vera realtà, solo nella tua immaginazione. È la tua fuga dalla realtà. C'è una fuga dalla vera realtà a sinistra e una fuga alla destra. La fuga dalla religione ebraica, cristiana, buddismo, è un approccio da destra. Tutti gli insegnanti orientali si avvicinano alla vera realtà da destra. Non è sbagliato, ma non sei impegnato con la vera realtà. Certo che ti sveglierai più tardi, ma non ancora, e questo è un peccato. Se la vita è preziosa per te, allora dirai, No, grazie, voglio la Kabbalah, voglio vedere la vera realtà. Ogni momento deve essere caro a te e devi vederlo come un momento unico. E se durante questo momento unico parli di qualcos'altro, allora sprechi la tua vita in questo momento. Dovresti vederlo in questo modo. Se lo vedi in un altro modo, allora sei Esaù o Ismaele. Allora sei impegnato con le cose esterne. Va bene, diciamo che vinci con la lotteria 100 milioni. Allora dovresti venire qui e continuare con lo studio della Kabbalah, perché i 100 milioni non sono nulla per il tuo progresso personale. O quello che perdi non vale nulla. Se lo vedi in un altro modo, allora non sei pronto. Ma se lo vedi in questo modo, allora puoi imparare lo Zohar. Prima ti avevo detto che avevo bisogno di 2 anni per tradurre Tess e pubblicarlo ogni settimana, poco a poco online sul nostro sito web. Ho anche bisogno di 2 anni per finire Be'ezrat Hashem, i 22 libri di Zohar, e Talmud Esser HaSafirot a 16 parti. Ho bisogno di questi 2 anni per finire Zohar dalla A alla Z. Non lo imparo come fanno in Israel. Lì imparano solo le parti ebraiche. Non sto dicendo che non lo possono fare, ci sono alcuni che possono, ma faccio ogni cosa da Zohar, aramaico ed ebraico. Non salto l'aramaico come fanno loro, non hanno tempo. Ho tutto il tempo per la Kabbalah, così durante quei 2 anni sarò pronto con Zohar, avrò finito per la prima volta. Non si è mai pronti con lo Zohar, ma poi avrò elaborato ogni cosa. A quel punto sarai pronto con Tess e io sarò pronto con Zohar. Poi lo darò in aramaico ogni settimana. Lo tradurrò per te, proprio puro come sto facendo ora. Senza fantasia, senza bla bla, lo Zohar senza bla bla. Quando si impara a regolare il Talmud, ogni giorno una pagina, allora ci vorranno 7 anni, 7 anni per un Talmud, e poi sarai anche ingannato, perché dopo 7 anni ti chiederai: cosa ho fatto in nome di Hashem durante gli ultimi 7 anni? È grandioso, molta conoscenza, ma dirai, dov'è il Creatore? Non sono riuscito a trovarlo nel Talmud. Quello che voglio dire è che non lo afferri più. Ma se qualcuno dice che lo afferra, allora dovrebbe andare a impararlo. Ma una volta finito Tess, dopo 2 anni, e quando inizi a imparare Talmud, per favore, allora non lo vuoi più, perché poi vuoi lo Zohar. Dopo Zohar capirai il Talmud. Cosa significa tutto questo quando è scritto su un ebreo che eruba da un altro ebreo, eccetera? Vedrai il Creatore dietro a tutto. È lo stesso con Zohar. Se inizi con Zohar ora, allora farai lo stesso errore come feci io quando ho iniziato a studiare Talmud. E ogni giorno sentivo di essere importante. Il mio intelletto si stava sviluppando al 100%. Pertanto ci sono molti intellettuali nel nostro mondo. Imparano Talmud e tutto va nella loro testa. Ma non c'è correzione. Allora hai una bella convinzione. Ci sono grandi rabbini che sono esperti in Torah e Talmud, sanno molto, ma è la cultura ebraica, è fantastico, ma non c'è correzione. Diciamo che vai in un'università e vuoi studiare fisica. Si entra all'università e si dice: ho letto sul giornale di una certa materia chiamata neutrino e voglio imparare su quella materia. Il professore poi dirà: vacci piano, devi prima imparare regolare la matematica, la fisica, e il neutrino viene dopo 3 o 4 anni. Abbiamo anche bisogno di 4 anni, come dice Rabbi Yehuda Ashlag, che sono necessari da 3 a 5 anni per entrare nella spiritualità. Se vuoi studiare il neutrino della Kabbalah, allora hai anche bisogno di investire qualche anno. Significa che puoi iniziare a lavorarci e avvicinarti ogni giorno al neutrino. Questo è il nostro piano. Che non continuiamo a ripetere articoli. Pertanto desidero che una delle nostre persone vada a Israele e si specializzi nell'introduzione della scienza della Kabbalah. Così egli può disegnare sulla lavagna e posso spiegare. È molto difficile per me spiegare ai principianti, perché allora sarei a corto di parola. Ci sono cabalisti che vengono dalla sinistra alla Kabbalah. Io vengo più da destra. Chi è migliore? È solo una questione di che tipo di anima hai. Pertanto sarebbe utile se qualcuno potesse andare lì e portare qualcosa dal lato sinistro, diciamo un po' di scienza. Chi era Esav? Colui che crede nella mente. E quella è la Klipat Esav. Qual è il potere impuro? Solo la Torah è pulita. Solo la vera realtà è pulita. Se ti avvicini alla realtà da sinistra, allora hai anche troppa saggezza. Possiamo vederlo in Occidente. Saggezza, conoscenza. Ma non c'è Chesed, fede. Anche gli ebrei in Olanda sono occidentali, usano solo la loro testa, e quella è chiamata Klipa Esau, è l'approccio della realtà attraverso l'intellettuale. La brillante qualità di ogni cosa che dà piacere alla mente, quello è Esau, quello è Kokmah, e che corrisponde con i poteri nell'universo e alla via di correzione attraverso destra, sinistra e Torah. Perché qui è la fede, ma fede sotto la conoscenza. La conoscenza è la mia fede, la mia convinzione è che so. La tua conoscenza è il tuo orgoglio. Guarda l'Occidente. Ci sono strati giganteschi di generazioni di orgoglio, arroganza. La loro natura pignola è così radicata che sembra impossibile rimuoverla. E quello significa il potere impuro di Esau. Possiamo fare ogni cosa. Il cielo è il limite. Ma solo nella conoscenza e non nell'intuizione, credenza. e d'altra parte ha il lato destro Ismaele. Essi dicono: conosco Hashem e l'occidentale non conosce Hashem. Le persone dalla destra dicono agli occidentali, agli americani, che sono senza Hashem. Cosa vogliono dire con quello? Sono dal lato di destra e pertanto per loro è più facile rinunciare alla loro vita per nulla, per un'idea, a farsi esplodere. Perché? Perché lui ha fede e per Esaù è ridicolo farsi esplodere? Perché? Egli usa la sua testa, cioè il potere dell'Occidente. Ogni persona ha dentro di sé Esaù, Ismaele e Israele, o Torah o Kabbalah, chiameremo più nomi. Israel non significa le persone che vivono in Israel, capisci? Quindi ci sono condizioni e possono cambiare, perché se guardiamo indietro di 500 anni, allora era il contrario. Nel mondo islamico c'era allora la conoscenza, ad esempio in Spagna, mentre era un periodo oscuro in Europa, crociate. No, guarda, prima di tutto non stiamo parlando di storia di nazioni. Naturalmente alcune nazioni sono portatrici di questi poteri, ma anche allora la conoscenza era sapere e conoscenza, sapere e conoscenza sono cose diverse. La conoscenza degli arabi civilizzati dell'epoca dal XIV al XV secolo avveniva attraverso la fede. Tutti i loro sviluppi di linguistica e anche della scienza positiva provenivano da loro, ma provenivano dal lato della Klipat Ismael. Non stiamo parlando di progresso tecnologico, stiamo parlando dei poteri strutturali dalla destra e dei poteri strutturali dalla sinistra. Non deve essere necessariamente una persona occidentale. C'è la vera realtà, l'approccio della vera realtà dalla sinistra e l'approccio della vera realtà dalla destra. Questo è ciò di cui stiamo parlando. Destra decide il lato sinistro. Certo, all'interno di Esaù c'è di nuovo Ismaele ed Esaù. Perché? Ogni minimo dettaglio corrisponde all'aspetto generale. Ci sono centinaia, tutti i tipi di variazioni di potere. Lo diciamo in questo modo, ma qui ci sono molte variazioni di approccio. Fino a qui ci sono innumerevoli variazioni di sinistra al centro. E qui, Michael lo mostra sul tabellone, ci sono anche innumerevoli variazioni di anime, condizioni di destra al centro, cioè l'obiettivo della creazione, che la creazione arriva finalmente alla salvezza e la salvezza è la vera realtà fino al Gmar Tikkun, la correzione finale. Destra e sinistra si neutralizzano l'un l'altro? È buono quello che dici, ma non è un equilibrio di poteri. Non è che devono portarsi l'un l'altro in equilibrio, ma si tratta di questi poteri che crescono verso il centro. E quindi ora vedi in Occidente, ad esempio, che vanno molti in Oriente, e le persone dell'Est vanno all'Occidente. Ma il significato è che la sinistra cresce verso il centro e la destra cresce verso il centro. Tutti loro vanno lì. E quello trova di nuovo la sua espressione nei due poteri di bene e male. Non sto parlando del bene e del male come e qui, ma dell'apparente. Uno dice che è buono e l'altro dice che è il contrario, perché entrambi sono come in due diversi lati della verità. Pertanto lo vedono in quel modo. E quella è solo un'osservazione. Se un uomo si alza nella sua osservazione attraverso tutti i mondi, allora porta Esaù e Ismaele dentro di sé a Israele. Allora porta Esaù e Ismaele dentro di sé a Israele. Non è che la destra è migliore della sinistra. In seguito impareremo come tutto funziona. Cochma significa saggezza nuda, quindi saggezza. Quando apprendi la Torah, c'era una persona, Balaam, era il più grande saggio delle nazioni del mondo. Per quanto riguarda la saggezza, era anche più grande di Mosè. Come può essere ciò? Lo dice il Talmud. Prima non riuscivo a capirlo. Perché? Non afferra il linguaggio della saggezza. Lo afferra, ma un po' allegorico, e così non puoi, come può essere? Mosè è qui, e Balaam è qui. Nel nome è la risposta dei poteri. Torah parla solo di poteri, ne parleremo più tardi. Così il Talmud dice che aveva più cochma di Mosè, che si trovava nel mezzo. Ovviamente è così. Perché? È un po' presto, ma proverò a parlarne un po'. Cos'è l'Occidente e l'Oriente? Nessun equilibrio. È sempre guerra dall'interno e quindi lo vediamo anche dall'esterno. Cosa significa Torah? Cosa significa il vero cammino? Non cocma in eccesso, la saggezza di un uomo dalla sinistra che ha un'enorme saggezza, saggezza nuda, ma non mescolata con Chesed, amore. Non posso ancora spiegartelo, ma siamo quasi arrivati. Abbiamo imparato in una delle nostre lezioni, ricordi, che Malchut ha fatto uno schermo e poi è arrivata la luce diretta, e quella è la luce di Kochmah. Quella è la luce della vera saggezza. E cosa fa poi la creazione? La creazione lo riflette. E quello è il potere riflesso della creazione stessa, che noi chiamiamo Or Choser, e come se fossero coperture, vestono la luce Kochmah. La luce Kochmah entra nel guscio e il guscio forma lo stesso Chesed. La creazione è creata in modo che la vera saggezza, la saggezza della vera realtà, può entrare nell'essere umano quando è coperta nel guscio, nel Chesed. Solo Chesed non è abbastanza. Perché no? Perché non dà potere. Questo è il segreto che stavo cercando. Ho viaggiato, ma non l'ho trovato. Guarda quando la luce, tutta la conoscenza, entra e quando la confronto. Prima la rifletto e quello è già un potere. Non prendo il Kochma in me stesso. Balaam, il suo potere, era che lui solo riceveva puro Kochma, pura saggezza dentro di sé. Lo riceve solo senza chiedersi se è corretto o no, se è il modo giusto per riceverlo o no. E pertanto questo Kochma porta l'oscurità. Che cos'è Klipa? Clipa è il potere impuro e chiede sempre di abusare della luce. Per approfittare della luce, ma non nel modo che la luce lo vuole, tipo come è programmato per essere ricevuta. C'è scritto nel programma che non puoi ricevere la luce che viene da sopra nella forma originale, ma deve essere come se fosse modificata. Deve essere coperto. Ci deve essere un guscio da Or-Hosed, Kesed. Ciò significa che il tuo atteggiamento dall'interno deve essere così, che ti adegui a non ricevere dalla luce del Creatore, ma che dici: voglio dare piacere, affetto al Creatore, voglio dare piacere al Creatore in ogni cosa che faccio. Dare piacere significa che tu vuoi dare a Lui, e quel dare è il guscio in cui può arrivare una reazione e in cui la luce di Chochmah può entrare, e quella è la saggezza. Chochmah di Mosè o la Torah. E se non lo fai in questo modo, allora è Klipat Esau o Balaam. Pertanto è detto nel Talmud che il Chochmah di Balaam è più grande di quello di Mosè. Perché? Perché lo ha ricevuto nella forma pura e Mosè lo ha coperto in affetto e quindi ha rinunciato al potere perché non è puro. Ciò significa che, ad esempio, puoi bere vodka pura e altri drink di vodka con succo d'arance e avere piacere, mentre l'altro si sente ubriaco e a disagio. Pertanto il Chochmah di Balaam è più grande, ma non è durevole. Il Chochmah di Mosè è durevole. Con questo ricevimento ottieni l'eternità. Rimane dentro di te e ottieni l'eternità, mentre tutta la saggezza di Esau è destinata alla rovina. Puoi vedere i tre poteri? Così abbiamo avuto le tre linee e l'importanza della riflessione, che prima dici no, voglio solo dare. Se dici che vuoi solo dare, allora in quel potere nel quale vuoi dare, in quel guscio di potere che vuoi dare, entra Chochmah, e quella è l'eternità. Ci sono delle domande, ma non udibili. A Balaam fu chiesto dal re di Moab di maledire il popolo di Israele. Sapeva che Balaam era capace di farlo. Come poteva essere capace di farlo? Perché Balaam poteva maledire il popolo ebraico, il popolo eletto? Ora possiamo vedere perché gli ebrei sono i prescelti, perché ottengono Chochmah e Chesed, e non solo Chesed, come fosse fede senza saggezza, ma ottengono Chesed, dando, e ottengono anche Chochmah all'interno. Li ottengono entrambi dentro. Li ottengono entrambi dentro. Il guscio è la fede. E dentro la fede c'è la saggezza, l'Or Chochmah, che ricevono nei loro Kelim la vera luce. Pertanto è detto, Mizion tezze Torah, fuori da Zion la Torah uscirà. Uscire o entrare è lo stesso. Esce da Zion perché lavoreranno quelli che si chiamano Israel e possono dare. E in quel dare la luce Chochmah entra. Quella è tutta la differenza, cioè ciò di cui parla la Torah. Quindi Balaam dovette maledire il popolo di Israel. Cos'è la maledizione? È utile conoscere la storia della Torah fisica, narrativa. Non devi immaginare nulla, ma leggi solo la storia, proprio come Harry Potter. Cosa significa che vuole maledire Israel? Prima di tutto aveva quell'enorme Chochmah e doveva farlo in un altro modo. Non voglio parlare di cose astrologiche, ma anche che aveva trovato un momento nell'anno. In ogni anno esistono certe condizioni in cui le persone, gli ebrei, sono in Pesach, tutti i tipi di condizioni, e ci sono momenti in cui il popolo ebraico, per così dire, si indebolisce. Per così dire, sembra che si indeboliscano, perché impareremo nella Kabbalah che durante il momento critico del cambiamento qualitativo di una condizione, che non accade in altro modo che nella forma di estrema debolezza, quasi svenimento, eccetera, e improvvisamente sei in un altro livello, diverso, positivo. Abbiamo imparato che Esaù, da sinistra, vuole solo controllare con la testa, perché quando controlli tutto, allora sei forte, ma spiritualmente non progredisci. Non progredisci nella qualità della tua vita. Vuoi solo avere tutto sotto controllo, potere, essere il capo. Cosa significa? Chochmah, sinistra, la tua testa vuole controllare tutto quello che accade in te. Da un lato hai un vantaggio rispetto alla destra di Ishmael, perché Ishmael dice: la mia testa non è niente, il mio cuore è per il Creatore, ma io uso solo la mia testa. Ogni essere umano ha tutti quei poteri dentro di sé. Vuole governare sul sistema. Se lo proiettiamo ai desideri umani, allora abbiamo Ishmael. Se seguiamo solo il cuore, commettiamo adulterio. Se qualcuno dice che non è così, allora può lasciare la lezione, perché poi o può fare domanda per papa o rabbino. Quindi il cuore vuole solo commettere adulterio, e naturalmente è così. Non è male, impareremo più tardi perché non è male, ma devi accettarlo. La testa vuole governare sul cuore. Allora abbiamo due righe in un sistema. La testa dice: sono il capo. Lui sa che il cuore vuole solo commettere adulterio e dice: no, lo controllerò e ho intenzione di controllarlo, così che non sento quello che c'è dentro lì. Spezza il cuore adultero, ho intenzione di controllarlo. Quello non è buono, e anche l'altro lato non è buono. La Kabbalah significa che c'è una sintonia tra questo e quello. Ogni cosa viene prima da sopra nella testa di un parsuf, lo spirituale, e poi lentamente arriva nel tok, nel corpo. Prima viene nella testa. Ogni cosa che esiste, esiste fuori in tre parti. Rosh, testa, tok di mezzo, sof, la parte finale. Ci deve essere sempre una coordinazione. La testa deve essere al momento giusto, pronta ad ammettere. In ogni condizione la testa deve, durante il momento critico di cambio da una condizione all'altra, in quel momento, quando l'essere umano lo fa in un modo buono, allora si indebolisce. La sua testa, per così dire, si indebolisce. In quel momento, durante ogni condizione, anche nelle nostre condizioni quotidiane, quando vai da una condizione all'altra, funziona in questo modo. Lasci la tua testa indebolire. Un enorme potere viene a te. Ciò viene come un segno della nuova luce, del nuovo grado, e ciò è così enorme, grande, e viene nella tua testa. Allora la tua testa, come se si fosse arresa, dorme, per così dire, è sempre un po' latente. In quel momento il cuore inizia a ricevere quella luce. Poi arriva nel tuo cuore e quello è il momento come se stessi svenendo, come un risultato dell'interazione tra la testa e il cuore. Viene una nuova condizione, impulso, in cui l'essere umano entra in un livello completo diverso, un essere umano totalmente diverso, un nuovo elemento entra in te, la luce poi entra in te. Luce che tu e tutte le generazioni prima di voi non avreste mai potuto osservare. Anche la generazione che vide il Creatore tête à tête sul monte Sinai, anche loro non potevano raggiungere una frazione di ciò che siamo capaci di raggiungere ora, perché siamo la generazione dei giorni del Messia, l'ultima generazione. Ciò significa che può ancora durare alcune generazioni. Una generazione non significa 40 anni. Le generazioni tornano di nuovo in altre apparizioni. Ogni generazione progredisce continuamente. Quindi, poiché aveva così tanta conoscenza, conosceva il momento in cui gli ebrei erano deboli, il momento in cui sarebbero venuti a un nuovo stato più superiore, condizione. Sapeva che gli ebrei hanno momenti in cui sono deboli, ma lui non conosceva la Torah, perché era dalla sinistra. La Torah dice che durante quel momento, quando Israel è debole, strutturalmente debole, cambia, che è durante quel momento nello girarsi tra una condizione e una condizione superiore. Lui non conosceva la Torah e pensava che fosse una condizione in cui Israel è debole, e ciò significa che Hashem è allora separato da loro. E ha pensato: «Oh, ora posso!» Lui fece tutti quei korbanot, sacrifici per rompere il guscio di amore del Creatore per gli ebrei, e come causare un cortocircuito in loro. Per tirare il potere giù, per causare un cortocircuito, come se fosse che avrebbero ricevuto una enorme luce. Con tutti quei sacrifici voleva tirare una enorme luce giù, in modo che mediante ciò avrebbe spezzato Israel. In questo modo sarebbero stati tagliati fuori dalla loro Torah. Così i loro Kelim si sarebbero rotti e non avrebbero avuto il potere di sconfiggere il popolo Moab. Perché il Creatore disse: «Devi sfondare tutte le sette nazioni di Palestina, Israel, la terra di Canaan»? Vedremo più tardi cosa significano quelle sette nazioni. Tre del Creatore che non possiamo toccare, perché sono quei tre. E qui abbiamo sette Sfirot. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod e Malchut. Israel ha dovuto lavorare sul potere di ogni strato, costruire il guscio separatamente per Chesed, e poi la luce può entrare. Poi hanno dovuto lavorare su un guscio per Gvura, e un'altra luce sarebbe entrata. In questo modo, per tutte e sette le correzioni, fino a che loro potevano entrare completamente nella terra di Israele. Perché quella è la terra di Israele. Canaan più tardi diventa Israele, cioè la terra dove Israel dovrebbe entrare e che lui voleva rompere. Come l'ha fatto? Disse al re di Moab: guarda, ho tentato questa parte, sette Sfirot, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malkut. Per quanto riguarda la storia. E qui sono le gambe e tu sai dove sono i desideri tra le gambe. E cosa consiglia il popolo di Moab? Non potevo maledire il popolo di Israele, non funzionava. Ma ciò che ti consiglio è di tentarli con le tue mogli. Lascia le tue mogli al popolo di Israele e loro commetteranno adulterio, avranno rapporti sessuali, eccetera. Di cosa parla la Torah? Sof, quelli sono i desideri dall'interno. Così disse a loro: non potrei romperli qui. Lascia la luce venire a Sof senza che siano preparati, senza che siano corretti, perché commettendo adulterio con le mogli di Moab, ebrei, Israel avevano allora tutti i poteri di creazione in loro stessi, e quindi il miglior consiglio era: lascia che commettano adulterio con le donne perverse di Moab. Non significa le mogli di Moab, ma i poteri. La Torah parla sempre di poteri e non di nazioni, e così via. Quello era il consiglio e successe in questo modo. Un'enorme piaga venne e morirono 4.000 persone. E venne Pinchas, un grande sommo sacerdote, che con un bastone, una lunga storia, riguarda tutti i poteri di cui parlo. Quindi, se conosci i tre poteri che sono nella creazione, sinistra, destra, in mezzo è la Torah, Kabbalah, Israel, Moshe. Potrei dare più nomi. Il nome è una riproduzione della comprensione di quel potere che comprende. La comprensione dà un nome a ciò che lui comprende. Vedremo nello Zohar cosa significa tutto questo. Lo Zohar descrive alcuni concetti e dentro c'è la descrizione di quei poteri nella formula dei poteri che esistono. Non sapevo cosa dire. Ogni giovedì, il giorno del corso, cammino avanti e indietro, faccio altre cose e poi non so cosa dirò. E quindi, da un lato è forse buono, ma dall'altro, guarda, quello è anche la Kabbalah, ma il lato pratico della Kabbalah. Quindi abbiamo anche bisogno di qualcuno dalla sinistra. Come fanno i cabalisti di sinistra, molto scientifico e sistematico, che fa appello alle persone, in particolare alle persone che lavorano con la testa. E poi è difficile per loro venir fuori dalla loro testa. Sanno ogni cosa di Sfirot, ma è ancora difficile per loro avvicinarsi alla Torah. Sono un uomo di destra, ovviamente ho anche qualcosa dalla sinistra, e quindi non posso farlo in modo diverso. Pertanto, se 100.000 anime si avvicinano alla vera realtà dal loro lato, così forse 300.000 qui e 300.000 qua. Sarebbe buono se qualcuno di noi che è più dal lato di Esaù, ci sono abbastanza Esaù in questo paese, potesse andare in Israel e dirvi la Kabbalah sistematica. Vorrei poi sedermi accanto a te e parlare di Torah, altre cose che non sei ancora in grado di affrontare. Cosa fanno le persone in questo mondo? Non stiamo parlando di bene o di male, è solo sviluppo. Hanno tagliato com'era la realtà in frammenti, perché non potevano vedere la realtà come un tutto. Pertanto diversi insegnamenti presero vita, dalla fede qui o dalla conoscenza lì. La gente chiede se la Kabbalah è una scienza. Sì, se diciamo che una gamba della Kabbalah è intellettuale, allora diciamo che la Kabbalah è scientifica. Se prendiamo la seconda gamba, sappiamo che il creatore ha creato il mondo su due gambe, ze lo ma ze, l'una verso l'altra. Se prendiamo la seconda gamba, allora possiamo dire che la Kabbalah è fede. Se c'è solo conoscenza e nessuna fede, allora significa che non è ancora arrivato alla fede. E la Kabbalah, o la vera realtà, è la fede sopra la conoscenza. Ciò significa la simbiosi di due. Credere al di sopra della conoscenza significa che c'è fede e conoscenza. C'è conoscenza, ma c'è anche fede sopra la conoscenza. Ciò significa che in entrambi esiste e verso il mezzo una simbiosi è fatta. Proprio come fa un fisico, divide elementi, un enorme potere, ma poi unirli poi insieme, allora un enorme potere prende vita. Un'ultima osservazione. Perché hai scelto il popolo di Israel? L'intero lato destro venne nel popolo ebraico dal patriarca Avram. Lui ha introdotto la qualità di fede in questo mondo. Prima di lui non esisteva. Avraham credeva al 100%, senza domandare ciò che tutto è. Non lo aveva lasciato come se lo avesse tagliato e si è unito completamente con il creatore solo destro. Avraham, la sua qualità è Chesed, amore, sicurezza, misericordia, che è Avraham. Quella è la prima gamba da cui il popolo ebraico ha preso vita, ma ciò non è abbastanza. È a destra della realtà, ma è un buon inizio. Così alla base dell'ebreo è sempre Chesed. Perché? Avraham è il primo patriarca. Se un ebreo scava profondo dentro di sé, allora troverà amore, Chesed, perché viene da Abramo. Poi venne suo figlio Isaac, Isacco. Il suo potere è Gvura, resistenza, ma buona resistenza della conoscenza. La conoscenza del creatore e costruire dentro di sé poteri che Avram non ha sviluppato. Abramo era amore e questo potere l'uomo occidentale, ogni cosa è in esso, ma ha costruito una cosa dentro di sé. Ha costruito tutti gli altri poteri come potere opposto di Chesed. Gvura, potere enorme, enorme conoscenza, come potere opposto dell'amore. L'amore senza conoscenza è adulterio. Il terzo padre, Giacobbe, venne e da lui comincia il popolo ebraico. Jacob ha Tiferet, magnificenza. Lui ha due. Lui ha i due. Jacob ha introdotto per la prima volta la qualità del timore del Signore, Irach. Se il mio popolo non pratica il timore del Signore, allora su cosa è basato? Jacob è perfezione, è la vera realtà. Sperimentare la vera realtà è Jacob. La qualità più importante di Jacob è il timore del Signore. Cos'è quella? Da suo padre Isaac prese severità, anche Din, e da suo nonno prese l'amore. Li ha uniti entrambi insieme, e quella fa il timore del Signore, e non quello che chiamiamo paura del Signore, perché non sappiamo nemmeno cosa sia. Ora possiamo vedere che il timore del Signore è la base per comprendere la vera realtà. Se vuoi progredire, se la tua vita è preziosa per te e vuoi ottenerne il massimo, allora devi far crescere il timore del Signore dentro te stesso, imparare cosa sia soggezione. Timore per chi? Per la grandezza del potere dell'assoluto altruismo nell'universo. Devi temerlo, perché non vali nulla in confronto ad esso. Vedi te stesso e senti veramente che non sei nulla riguardo al potere eterno. David ha detto: «Sono un verme e non un uomo». David, il re da cui verrà il Messia. Devi far crescere il timore del Signore dentro di te. Devi imparare cosa è, perché è la base. Se non hai timore per il Signore in ogni cosa che impari, allora non ti aiuterà. Se impari Talmud senza il timore del Signore, allora non è assolutamente nulla e arriverà un'enorme punizione. Naturalmente ogni ebreo ha timore del Signore, e poi l'amore viene, e anche quando viene l'amore. Ora parlo quasi in termini religiosi, perché non posso ancora parlare con te di Sfirot. Se te le mostro nelle Sfirot, allora vedrai le cose, ma arriverà. Immediatamente dopo Pasqua iniziamo con le 10 lezioni della Kabbalah. Prova ora a leggerlo il più possibile. Quel grande professore che mi ha visitato ha detto che lo correggeremo insieme. Sarà una grande traduzione. È la base della Kabbalah, da capire per cominciare. Se riesci a vedere l'intera storia, fino all'obiettivo della creazione, poi possiamo. Ora posso vedere che sono in grado di dartelo dopo Pasqua. Per me c'era un problema a darlo, perché non posso dare come fanno gli altri insegnanti. Lo danno in modo sobrio. Possono disegnare tutti i mondi, li conoscono tutti a memoria. Non posso nemmeno sognare di farlo come loro. I ragazzi di 21 anni conoscono tutti i disegni. Ma dov'è il timore del Signore? Non puoi fare un passo avanti e non riceverai nulla. Puoi leggere migliaia di libri, incluso Zohar, ma sarà tutto contro di te. Non puoi toccare Zohar se non hai costruito il timore del cielo, Yirat Shamayim, perché solo allora puoi toccare lo Zohar, altrimenti tocchi qualcosa che è di fuoco e fiamma, un coltello che taglia su entrambi i lati. È terribile se vedi la verità, anche quando sbirci attraverso un piccolo buco.